as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose, Radio Città Fucico, la trasmissione degli operai metalmeccanici di Bologna, ma non solo, come diciamo sempre. Siamo stati alla manifestazione del 18 giugno, la manifestazione della CGIL, indetta contro il governo Draghi, finalmente. Preferivamo uno sciopero, chiaramente, c'era stato promesso, ma purtroppo non è arrivato. E tutte le cose che avevamo detto nel mese di dicembre, di un'inflazione che arrivava alle stelle, di un PNRR a favore dei padroni e di un Draghi che non guardava assolutamente i lavoratori, si è verificato. Il 18 giugno nella piazza c'erano tanti delegati, anche dei lavoratori della CGIL, non c'era la UIL, questa è una cosa importante. L'intervista questa volta non l'abbiamo fatto né ai delegati, né ai funzionari sindacali, né ai sindacalisti. Abbiamo voluto intervistare un politico extraparlamentare, visto che non è in Parlamento, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista. Rifondazione Comunista era presente in piazza a Roma, penso che sia stato il partito che aveva più militanti che volantinavano. I volantini erano interessanti. E per questo, siccome noi crediamo che in questo momento serve anche una sponda politica di massa dei lavoratori, il sindacato deve fare il suo, ma serve anche qualcuno che politicamente riesca ad aggregare i lavoratori e non solo i lavoratori. Per questo abbiamo chiesto, visto anche i risultati in Francia della sinistra, abbiamo chiesto a Maurizio Acerbo alcune sue opinioni su vari argomenti. Adesso una bellissima canzone di Pablo Ansel, compagno in carcere in Spagna perché antimonarchico e comunista. Oggi la puntata sarà dedicata a lui e poi sentiremo Maurizio Acerbo nella piazza di Roma del 18 giugno. Aguantar este infierno para que los nuestros conozcan el cielo como el regazo que tanto anhelo. Hace tres meses que no la veo y parecen años. Como a mis hijos, cuánto daría por abrazarlos. La incertidumbre golpea en el frente, pero ya me despedí si a diario la muerte viene a verme. Debo ser fuerte aunque el miedo duela, casi tanto como cuando matan a una compañera. Observo la bandera roja y me emociona, me da fuerza lo que representa y crezco como persona. La guerra me desgarra pero no la empezamos, nos la declararon por dar dignidad al ser humano. Y si es necesario daré la vida por la libertad de mi clase contra la barbarie fascista, por mis camaradas que dan ejemplo en esta tierra. Perder el socialismo más que la muerte materna. Los míos estarán orgullosos de mí, jamás podrán decir que su padre fue un cobarde. Sé que seguramente voy a morir aquí, pero la causa será regada con nuestra sangre. Si sobrevivo podré mirarme orgulloso por darlo todo, no ser un bocazas como otros. Derrotaremos a los nazis y al regresar honraremos la memoria de quien murió por tu libertad. Hace una semana mataron a mi amigo Yakov, cuando disparó a esa escoria recuerdo su voz diciendo: cueste lo que cueste no pasarán. Le costó la vida pero su familia crecerá en paz. Pensando mi fin en silencio lloro, pero también soy feliz con camaradas que valen oro. Me siento bien luchando por una causa justa, cuando me concentro disparando solo la derrota me asusta. Mañana iremos a una zona peligrosa, ojalá pronto venzamos y olvide la muerte que acosa. Me voy a dormir abrazado a la foto de mi familia, tengo frío pero el calor de mi pueblo me abriga. Tenemos que hacer creer a nuestros camaradas en la victoria, démosles esperanza, orgullo y deseos de luchar. Sí, démosles ejemplos, pero ejemplos a seguir. Lo que necesitamos son héroes. La hoz y el martillo de mi uniforme me dan una energía poderosa, enorme. Cuánto deseo que esto acabe cuanto antes. Dedicarme de otra forma que el socialismo avance. Son días malos, nos tienen rodeados. Han caído tantos camaradas disparándolos, lloramos. Hoy he de apostarme en un sitio muy inseguro. De este presente dependen tantos futuros. ¿Cuánto se perderá si gana la bestia fascista? La nieve cae mientras beso al fusil que lo evita. Soy buen francotirador, pero cuesta no temblar. Recordaré otra vez la victoria contra el zar. Me miro con mi camarada, nos guiñamos el ojo, repitiendo en voz baja: ¡viva el ejército rojo! Mantengo el pulso, ahora solo el corazón tiembla. Disparo y la bala atraviesa otra cabeza enferma. Aparece más lanzando granadas, fallan. Mil trozos de pared caen sobre mi cara. Mi camarada grita, está gravemente herido. No puede moverse entre la nube de polvo, sigo dando tiros. Acerca más nazis, también más camaradas que disparan. Apenas puedo ver, pero me basta para causar bajas. Los gritos de dolor en ruso y alemán señalan que la batalla está igualada, no pasarán. Disparo con toda la rapidez que puedo, tan concentrado que no tengo tiempo para el miedo. Tenemos que acabar con ellos y salvar a los heridos, pero mierda, mandado en el intestino. Intento coger el fusil, pero apenas puedo moverme. Rápidamente un charco de sangre refleja la muerte. Escucho más disparos y veo a mi familia llena de orgullo, a la dignidad gritando ni un paso atrás. Y asumo que estos ojos que me pesan tanto se cerrarán para siempre aquí en Stalingrado. Tan lejos de mi familia y tan cerca de lo que amo, no van a joder el poder del proletariado. Los camaradas gritan contentos, los han vencido, pero no tengo fuerzas ni para alcanzarlos con un grito. Lo último que veo es mi cuerpo lleno de sangre, roja como la bandera que lo cubrirá al enterrarme. Allora, siamo qui alla manifestazione della CGIL, 18 giugno, Roma, Piazza del Popolo, e ho incontrato Maurizio Acerbo, segretario di Fondazione Comunista, mio paesano abruzzese come me, lui del Paese delle Rose. Cioè, quando troviamo un politico che si occupa dei lavoratori, lo vogliamo intervistare, vogliamo sapere lui cosa ne pensa, uno, di questa manifestazione, poi ti faremo altre domande. Ma la manifestazione mi sembra un fatto positivo, se è l'inizio di una mobilitazione della CGIL su una piattaforma di difesa delle condizioni di vita, dei salari di lavoratrici e lavoratori. L'Italia ha una situazione drammatica, questo deriva anche da responsabilità purtroppo dei sindacati confederali che in questi anni, per la vicinanza al Partito Democratico e prima al centro-sinistra, non hanno contrastato, a mio parere, a dovere le politiche dei governi. Credo che sia positiva questa mobilitazione perché mi sembra che prepari un autunno in cui la CGIL torni in campo in maniera forte. Credo che ce ne sia assolutamente bisogno perché a fronte di una montagna di denari del PNRR sostanzialmente il governo non sta facendo neanche una riforma per tutelare i lavoratori, non hanno neanche bloccato l'aumento delle bollette, non hanno fatto il salario minimo a 10 euro che insomma sarebbe indifferibile data la situazione, non intervengono sulla legge Fornero, non reintroducono una qualche forma di scala mobile. Insomma, a mio parere credo che ci siano tutte le ragioni per una stagione di conflitto in Italia e per far sentire la voce dei lavoratori che oggi non sono praticamente rappresentati in Parlamento, se non dalla componente manifesta e da pochi altri. Allora, hai parlato di salario minimo e di scala mobile, sono due temi che se ne sta discutendo tantissimo all'interno del sindacato. Io sono un dirigente della FIOM, pur sempre operaio, sempre dirigente. Noi come FIOM abbiamo finalmente preso posizione sul salario minimo, siamo d'accordo. Questa qui noi siamo tra i paesi che non ce l'abbiamo e i sindacati in questi anni sono stati quelli che più hanno remato contro al salario minimo. Tu cosa ne pensi di questo? Beh, noi come Rifondazione Comunista abbiamo sostenuto sempre questo punto, anche perché era una leggenda metropolitana che il salario minimo impedisca la contrattazione, semplicemente stabilisce un livello minimo da cui si parte per andare a contrattare e consente, tra l'altro, di fronte a un'estrema frammentazione del lavoro, di non mobilitarsi soltanto rispetto alle imprese, ma di mobilitarsi anche rispetto al sistema politico. Basti pensare a cosa è accaduto negli Stati Uniti con la campagna di Bernie Sanders per l'innalzamento del salario minimo. Io credo che adesso che tutti cominciano a mettere che ce n'è bisogno, bisogna fare in modo che non sia una truffa, cioè che non sia un salario minimo talmente basso da risultare inutile. Per questo che noi diciamo che deve essere almeno di 10 euro, perché altrimenti se scendiamo oggettivamente non interveniamo rispetto al fenomeno del lavoro povero. E poi abbiamo bisogno di rilanciare sul tema della scala mobile, che ricordo fu la prima pagina in cui il condizionamento da parte del quadro politico spinse la CGIL, l'allora segretario Trentin, a dover accettare un patto per l'Italia che è risultato una fregatura per le lavoratrici e i lavoratori. Ecco, io direi che la cosa migliore da fare è non fare più patti, ma fare un po' di lotte, perché 30 anni di patti, concertazione, eccetera, hanno fatto sì che noi ci ritroviamo milioni di precari, salari e stipendi i più bassi in Europa, siamo gli unici che hanno visto diminuire il monte salari e il monte stipendi, e in più ci ritroviamo anche un sostanziale smantellamento dello Stato sociale, perché abbiamo avuto privatizzazioni a go-go non sostenute. Io insomma penso che sia fondamentale che la CGIL tenga una linea di autonomia dai governi e dai partiti, anche dal centro-sinistra, perché purtroppo tutte le misure neoliberiste contro i lavoratori che Berlusconi non riuscì a portare avanti, le ha poi realizzate quello che oggi si chiama il PD. Su questo bisogna fare i conti. Se in Francia c'è una sinistra così forte è perché la CGT ha fatto l'opposizione a Hollande e l'ha fatta a Macron, e di fronte alle riforme delle pensioni o al loro Jobs Act ci sono stati gli scioperi a oltranza. È ora di considerare quindi la politica in base agli interessi dei lavoratori, perché è l'unico modo per difendersi. Allora, sicuramente ti dico che oggi, siccome non c'è nessuno che difende i lavoratori in Parlamento, tanto qualche singolo parlamentare, chiaramente l'autonomia politica, la CGIL ce l'ha quasi di forza, tranne ancora forse i pensionati che sono legati al PD, ma di, almeno comunque in FIOM sicuramente c'è una forte autonomia, anche purtroppo obbligata, visto che comunque sia di fondazione non è più in Parlamento, e anche altri partiti, i 5 Stelle hanno deluso tantissimo, e nessuno si sente rappresentati. Ad esempio sulla scala mobile noi abbiamo c'è una campagna che la sinistra sindacale della CGIL sta facendo, il giornale di marzo, tu lo sai, stiamo raccogliendo le firme davanti ai luoghi di lavoro, siamo completamente d'accordo. Una delle cose che ci chiedono però i lavoratori nei luoghi di lavoro è che serve anche una forza politica grossa, forte, importante per poter portare a casa una cosa così difficile come la scala mobile, perché se sul salario minimo l'Europa, anche per motivi di dumping contrattuale, perché sono i tedeschi e i francesi a spingere, no? Per dire ragazzi, hanno paura che dopo se i salari sono troppo bassi in Italia, i tedeschi vengono qua a fare affari, no? Però il problema con la scala mobile sappiamo benissimo che sarà molto difficile, e i lavoratori ci chiedono una forza politica di massa, di fondazione. Si riuscirà a fare come in Francia, perché lì la questione è anche politica, è vero che la CGT ha fatto quello che ha fatto, però sono riuscite le sinistre a creare un programma, a unirsi, c'è questa cosa qua, Rifondazione ha in testa questa cosa qui, perché cioè, la scala mobile è una necessità oggi più che mai. Beh, noi ce l'abbiamo da anni questa necessità in testa, il problema è che tanta parte dei movimenti, del sindacato e della stessa, delle altre formazioni di sinistra, in particolare sinistra italiana, tendono a perpetuare l'alleanza con il PD a prescindere dai programmi, perché nessun punto tra quelli con cui si presenta la sinistra in Francia può essere inserito in un programma condiviso dal PD. Ora ci sarebbe bisogno quindi di provare a costruire un'unione popolare come in Francia. Noi torneremo alla carica su questo con De Magistris, con cui per 10 anni abbiamo fatto questa esperienza a Napoli, in cui vincemmo contro centrodestra e centrosinistra, e infatti è l'unica città in cui il referendum sull'acqua fu applicato, in cui non ci sono state privatizzazioni di servizi e di beni comunali. Adesso il PD ha già cominciato invece la svendita, infatti, appena fatto la restaurazione. Quindi noi ci stiamo lavorando, c'è la disponibilità di Potere al Popolo e di altre formazioni. Noi auspichiamo che il processo che lanceremo nei prossimi giorni si allarghi, coinvolgendo e penetrando in tutte le aree della sinistra. Noi non siamo contrari al settarismo, però riteniamo che ci sia bisogno di una discriminante. Quando il Partito Comunista Francese e Mélenchon partirono più di 10 anni fa, avevano pochissimi voti, il Partito Comunista era intorno all'1%, però c'è stata un'opera di ricostruzione, perché un punto di vista dalla parte delle classi lavoratrici e delle classi popolari a poco si è imposto. Però per farlo non devi essere un appendice del PD. Per questo siamo d'accordo. C'è un fortissimo dissenso da parte mia nei confronti delle liste coraggiose, lo dico, perché alla fine servono come operazione di greenwashing per i neoliberisti del PD. Magari chi ci partecipa è in perfetta buona fede, però bisognerebbe riflettere sui risultati anche sul piano ambientale. Qui a Roma hanno portato i voti a Gualtieri, il primo risultato è l'annuncio che faranno il più grande inceneritore d'Italia. Ora io credo che anche la guerra imponga delle scelte chiare. Il PD non solo è il partito più organicamente neoliberista in Italia, ma è anche il partito purtroppo più guerrafondaio. È riuscito a far passare per pacifista Salvini, quindi io spero che riusciamo, almeno noi ci proveremo, a costruire questa unione popolare, perché io sono convinto, lo dimostra anche questa piazza, che un popolo di sinistra in questo paese ancora c'è. Certamente c'è. I lavoratori hanno 3 emergenze: salario minimo, scala mobile, dunque parliamo sempre del salario, poi c'è la precarietà e poi ci sono la questione delle pensioni. Pochi argomenti che si devono coniugare per forza, come hai detto tu, sull'ambiente e sulla guerra, sono entrambi molto importanti. I lavoratori non vogliono questa guerra perché hanno paura di quello che sta per accadere loro. I lavoratori sempre di più fanno fatica a arrivare a fine mese. Io penso che se riuscirete a creare una grande forza di massa, vi seguiranno con pochi argomenti, ma dipenderà da noi. Per capirci, un solo esempio: in Francia la campagna elettorale è polarizzata, se si guardano i TG francesi a grande stampa, sul fatto che Mélenchon vuole portare l'età pensionabile a 60 anni. In Italia è possibile fare una cosa del genere essendo alleati del PD? No. No. E quindi bisogna scegliere, non ci se la può prendere con i lavoratori e le lavoratrici per il successo della destra. Questo successo della destra deriva anche dal fatto che ci sono 2 decenni di fregature che sono state rifilate da governi che si dicono di sinistra. Ti ringraziamo e speriamo di avere un partito di massa di lavoratori al più presto. Spero anch'io. Ciao, grazie Maurizio. Inútiles costras hablando mierda, sin mover el culo, sin luchar, mientras nosotros nos la jugamos también por sus derechos. En las calles dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, pues hay que ser muy mal nacido para actuar así. Sufrimos a diario su violencia burguesa, por supuesto que apoyamos la autodefensa. Dices que estas letras son violentas, no violencias contra lo que protestan. Violencias permitir que asesinen impunes, que la democracia siga enterrada en fosas comunes. Que niños desayunen la desesperación de sus padres, que no saben cómo podrán alimentarles. Así como van a centrarse en la escuela, hablando oportunidades mientras puertas nos cierran. Quieren que nos sintamos fracasados y en todo caso me lo siento por no devolver disparos. Muertos Franco siguieron encarcelando con torturas, asesinando a comunistas como Juan Martín Luna. Mientras falsos comunistas no lo denunciaban, esto se demuestra con hechos, entiéndelo bocazas. Qué fácil es no percibir fascismo, pim pim, sí. Lo más arriesgado que hace son fotos de Lenin en el perfil. Lenin comió cárcel, clandestinidad y exilio. Como el PCR, tranquilo, a ti no te van a perseguir. Si respetas la legalidad como Podemos, luego los insultas, pero eres igual o peor memo. ¿De qué pan nos hablas, niñata mimada? Cuéntaselo a las bombas que nuestros impuestos pagan y que caen sobre inocentes de verdad. Si quieres paz, lucha contra eso, sal a la calle a protestar. Es fácil ver el mundo guay desde tu burbujita, mientras otros buscan lo que en el contenedor tiras. La vida no es una comedia yankee, despierta. Nunca será rica, currarás por una mierda. No lucharán por tus derechos esos famosetes. Yo sé que probablemente acabe limpiando retretes. Que ahora tendría que aceptar casi cualquier trabajo. Con el rap ni sobrevivo aunque miles me estén escuchando. He currado cargando cajas, montando muebles hasta de payaso. El arte también es un curro aunque tú lo veas como franco. Cosa de vagos, háztelo mirar cuando luego lo consumes. ¿Te crees que no hay esfuerzo detrás? Es como si vas a un cocinero, le dices que te cocine gratis solo porque le gusta hacerlo. Te mandará a la mierda, es lógico, chaval. Entonces, ¿por qué crees que haré conciertos sin cobrar? Solo si es por solidaridad, sin olvídalo. Necesito pasta pa' facturas, no pa' joder mi hígado. Echaré leña al fuego pa' que esta mierda pete. No me hacen gracia bufones del sistema como buena fuente. Me reiré cuando haga chistes sobre enemigos del pueblo castigados. No sobre Castro que dio derechos al pueblo cubano. Dime que soy el malo, un terrorista en cascos. Por querer que nadie viva la miseria y otros acumulen en el banco. Quienes mandan son aún peores que Franco. Morir de frío en la calle en vientos peor que fusilado. A monstruos así solo los pararemos por la fuerza. Se atragantará con los escrúpulos que no tiene cada escoria burguesa. No merece ser llamado humano. Que nada en la abundancia por tener a otros ahogados. Claro que quiero aplastar su constante burla, como el ministro diciendo que la Virgen nos ayuda. Cerdo del Opus, ojalá se caiga al techo cuando estés en misa rezando por jodernos más derechos. No me arrepiento de lo hecho contra la dictadura del capital. En todo caso, de no haber luchado más. Tú de que vas llamándonos cibermilitantes desde el PC mientras estamos en asambleas y tú con cualquier memez. Aún no te he podido ver en ninguna protesta, solo echando mierda porque ante la represión tiemblas. Peleo por un gamonal en cada ciudad y que las chispas prendan la pradera donde como a cordero nos esclavizan. No nos digas que la policía por tu seguridad se puso, si sirva a quienes nos niegan un trabajo seguro. En muchos casos hasta se paga por trabajar, mientras Leticia se opera la cara con los recortes en sanidad. Ya vomitarán todo el caviar que cenan cuando se radicalice cada lucha obrera. Antidisturbios que te diviertes golpeando, recuerda que no olvidamos ni perdonamos y pasaremos cuentas. Dime cómo no te revienta que te falte dinero, mientras con falsas promesas quieren que no nos revelemos. Mientras aumentan beneficios criminales como Endesa, subiendo la luz, cortando las familias que encima piensan que la culpa es suya, por no ser ricos la publicidad les hizo sentir basura. No, claro que no puedo soportar esto, no solo haré canciones, no voy a quedarme quieto. Si el mundo te parece una mierda, haz algo pa' cambiarlo. De lo contrario eres cómplice, el cambio está en tu mano. Soy el primero que se exige, reconozco mis errores. Por eso respeto tanto a quienes han sido mejores. Tú puedes ser miserable, llega la represión y te cagas, vomitando contra quienes seguimos en la barricada. El tiempo desenmascara a cada oportunista, que cuando las cosas se ponen feas se esconde y critica. No son capaces de reconocer sus limitaciones, demostrando la misma honestidad que los borbones. Si yo no pudiera más, un día lo reconocería. Respetaría a quienes siguen, será que no soy porquería. Pero no, nunca seré un costa y un pasota. Por suerte, si fuera un traidor, alguien me partiría la boca. Nos atacan a Pipe, a Saúl y a mí, porque decimos lo que otros nos atreven a decir. Porque apoyamos a revolucionarios, no poltroneros. No digas que somos izquierdistas, di que tienes miedo. Pedimos la libertad de Sergi Dalfón, de María José Baños, de cualquiera que se haya enfrentado al Estado. Atacas nuestro flow, escocida, porque nuestro rap concienció más que tu partido legalista, al que el Ministerio de Interior pone facilidades pelele, mientras a nosotros nos detienen por darles donde duele. El tiempo y la lucha pondrán las cosas en su sitio. El futuro será de los que tenemos principios. ¿En qué bando estás? Yo lo tengo claro, apoyando a quienes lo han dado todo contra el Estado. ¿En qué bando estás, Yo lo tengo claro, apoyando a quienes lo han dado todo contra el Estado. Y tú les estás insultando desde la comodidad. Hay que ser escoria, desagradecido. Sal a la calle y juégate algo para cambiar esto. A ver si tienes agallas. Es muy fácil hablar por internet, cualquier cobarde puede hacerlo. Pero luego en la calle somos cuatro y no estáis entre ellos, nunca os vemos. Gastad vuestra rabia inútiles contra quienes os oprimen, contra quienes nos oprimen. Ser inútiles. Y no contra quienes luchamos. Demasiada bocaza para tan poca autocrítica. Avete ascoltato un altro bellissimo pezzo di Pablo Ansel. Ricordiamo, compagno finito in galera per le sue opinioni politiche contro la monarchia spagnola. E prima di lui abbiamo sentito l'intervista di Maurizio Acerbo, segretario di Difensione Comunista, fatta il 18 giugno durante la manifestazione della CGIL. Ora, così come abbiamo detto anche nell'introduzione, certamente in Italia, in Parlamento, così come hanno detto anche molti illustri dirigenti sindacali, non c'è nessuno che ci rappresenta, o qualcuno c'è ma non c'è una forza politica rilevante. C'è veramente una sproporzione per quanto riguarda la rappresentanza. I lavoratori non sono rappresentati in Parlamento. Questo è un problema serio. Serio, anche se a noi fondamentalmente spesso si parla di possibili rivolte, possibili situazioni in cui i lavoratori potrebbero insorgere. Noi siamo solo contenti se avviene da sinistra, molto meno contenti se avviene da destra. Chiaramente potrebbe diventare un'insurrezione reazionaria, e abbiamo visto cosa è successo in Ucraina. Però in questa situazione io penso che sia stato interessante ascoltare Maurizio Acerbo e il progetto che lui ha di creare una forza simile a quella che è successo in Francia, unire in maniera seria sotto un fronte tutti i partiti di sinistra. Addirittura c'è anche l'appoggio di Potere al Popolo a questo progetto, che insomma è importante, perché il popolo sta riscuotendo successo rispetto ad altri partiti classici della sinistra in Italia, extraparlamentare chiaramente sto parlando. Diciamo che i lavoratori hanno bisogno di una forza politica che sia un passo avanti ai sindacati, perché altrimenti uno ha il suo sindacato. In questi anni vi ho visto come spesso i lavoratori, anche se il sindacato è in crisi, spesso militano nel sindacato, cioè la tessera sindacale, e non guardano più verso i partiti, ma guardano spesso nel sindacato, perché tutti i giorni loro lo vivono, la vita di lavoratori. Però questo è limitante, perché il sindacato comunque fa delle battaglie, fa della mediazione, fa della contrattazione, però per quanto riguarda le norme, le leggi, insomma la parte anche di leggi, come legiferare alcune normative, come interpretarle, certamente non avere un appoggio politico, questo è molto molto limitante per l'aspetto sindacale. Ecco perché serve un partito di massa, serve il prima possibile un partito dei lavoratori, e per questo abbiamo intervistato Maurizio Acerbo, che ci ha spiegato il suo punto di vista. Chiaramente chi ha ascoltato l'intervista sa che lui comunque il suo modello è quello francese, e però chiede al sindacato una coerenza, chiede al sindacato lotte, conflitto. Certamente ha ragione, ma noi chiediamo anche a Rifondazione e a tutti i partiti di sinistra anche la coerenza. Coerenza, e bisogna che ci torni davanti ai lavoratori, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di lavoro, per poter fare quella militanza che da tanti anni manca all'interno dei partiti di sinistra. Ecco, questa è una puntata molto politica, ma in realtà è molto sindacale in realtà. Io vi saluto e ci sentiamo nella prossima puntata. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro